visto dire una preghiera che diventava una realtà, oppure aprire una frontiera con la forza della libertà. E i miei occhi cadono nel vuoto, i miei pensieri vagano qua e là, e i miei sorrisi vanno contro il muro della tua assurda solidarietà. Ed io non so il perché di questa piccola età. Ed io non so il perché, è proprio a me che non va, è proprio a me che non va. Gente che urlava i suoi problemi a chi non sa ascoltare, e chi bruciava i suoi veleni nel modo peggiore. Non bastano più 30 denari se ti vuoi far comprare. La vita in fondo è una corsa sfrenata, senza regole né moralità. Ed io non so questa è la realtà. Ed io non so il perché l'aria è tossica, l'aria è tossica. Ho visto uomini incerti buttare via una vita, soffocati nel mondo e senza via di uscita. Gente con tanta voglia di stare in mezzo alla gente, destinata a scappare per un incidente. Persone ricche e potenti, ma vili e corrotte, cadere a terra con le gambe rotte. Gente semplice, gente, gente della strada, attaccarsi a un sorriso per godersi la vita. Ed io non so il perché di questa fragilità. Ed io non so il perché solo con te se ne andrà, solo con te se ne andrà.